Veramente, ma avete rotto i coglioni con questo programmino? Perché è un programma di merda, dai, questa zanzarina, mo ti spruzzo l'autan, eh? Io avrei una leggera voglia di sentirvi proprio che chiudete bottega e basta con questa radiola di merda, basta, forza, dai, su. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. I've been driving all night, my hands wet on the wheel. Il capo è uno stronzo? Tua moglie ti fa le corna? I tuoi figli neanche ti parlano? E chi se ne frega? Alle 18.30 c'è la zanzara. Ufficio, ho smarrito gli operai, ho rollato su una canna, podcast della zanzara e siamo al top. Caro Parenzo, perfino Gentilini, lo sceriffo di Treviso, sì, dice che è stato maestro di Trump. Tornano tutti. Io sono stato il suo maestro, si è ispirato a me. Sì. Beh, parla anche l'italiano. Questo Gentilini, come non credo. Questo non credo. Dai. Ragazzi miei, le parole definitive su Trump sono state pronunciate ieri sera dallo Sgarbone. Un po' ispirandosi, secondo me, al sottoscritto in questo caso, un po', non tutto. E a quello che è venuto fuori negli ultimi giorni della zanzara, lo Sgarbone scatenato, tutto lo voglio sentire, tutto. Il manifesto definitivo su Donald Trump dallo Sgarbone. Trump da felicità, perché Trump ti assomiglia. Trump è la parte peggiore di noi. No. Trump è il trionfo della libertà. È lo stalker per tutti noi, Trump. È la libertà dell'etero gay, anzi dell'etero pride. Ci siamo liberati, perché Trump vuol dire che puoi parlare di figa, che puoi parlare di donne, che anche Frainetti, che è un po' ipocrita, ma grande mio amico, può dire che gli piace la gnocca invece che rimproverarlo. Cioè, perché noi dobbiamo vivere di gay pride con i culattoni del mondo che si mostrano il culo e non possiamo dire che ci piace una ragazza, perché altrimenti facciamo stalking? Attaccati al Trump, questo è il nuovo detto che vedrà tutti questi italiani, la Boldrini che si attacca a Trump, è meraviglioso, che dovranno leccargli il culo perché è comunque più potente di loro. Chi non è Trump e tutti noi. Porro, tu sei Trump, lo vedo in te, il Trump che è in te. E invece quando guardi i formigli, vedi che non può sopportare che ci sia Trump anche in lui. Farinetti è tutto Trump. Dov'è Berlusconi? Farinetti? È più Clinton. Dov'è Berlusconi Farinetti? Oggi è intimidito, è messo lì tranquillo. No, Trump no, è anche nella bocca, sì. Ma si sta mangiando! C'è Trump, c'è più Farinetti. Trump che Hillary in Farinetti. Io lo so, lo so. E anche in Renzi c'è Trump. Quando Renzi prende per il culo il povero Letta, stai sereno. Quando caccia D'Alema, il vero Trump è Renzi. Friedman che dice è uno squilibrato, non è mentalmente stabile, e lo andrà a intervistare e farà un libro su di lui, il mio vecchio amico Altri. Tutta questa gente che l'ha coperto di merda dovrà inchinarsi a Trump e dire: sei il presidente degli Stati Uniti e noi siamo delle pulci. Risparmiaci! Tu pensa questa Hillary Clinton, che dopo aver buttato bombe per importare la democrazia, c'ha pure la faccia di quella che ha ragione. Una delinquente comune, una criminale di guerra, che andrebbe arrestata come Milosevic, che ha distrutto l'ordine dei paesi, che non c'è bisogno di bombe per affermare la democrazia. Lasciali in pace, Gheddafi, Saddam Hussein. Questa criminale di guerra ci faceva pure la morale. Obama, un terrorista che non è stato capace di cancellare Guantanamo. Questo vuole eliminare la NATO, è meraviglioso. Soltanto l'America sarà il suo territorio e noi saremo liberi dagli americani, se non per farli venire a fare i turisti. È identica a Rosi Bindi con De Luca. Io ho visto, ho trovato oggi con De Luca. De Luca sta a Trump come Hillary sta con Rosi Bindi, rompendo il cazzo sulla corruzione per uno che non ha fatto niente. Io direi che queste parole, caro Parenzo, sono, non dico definitive, ma assolute, ecco, sì, ecco, pietre ecco. Miliari, ma, direi so. Pietre miliari assolute, pietre miliari assolute, non si può dire altro, cioè la verità è questa, molto, no, non molto condivido, semplice. È sempre spumeggiante, divertente, però... Ah, non condividi, non condividi. No, ma non tutto, assolutamente, alcune battute sono divertentissime, ovvio, ma anche la... sì, ma alcune cose, no, la guerra, che è arrestata come criminale di guerra, ma che bellissimo, discorso è? Ma che discorso è? Sallusti su Madonna, senti, tutti scatenati. Mancava Sallusti su Madonna. Mancava. Sai qual è l'unica cosa sessista di questa campagna elettorale? È stata Madonna che ha umiliato tutte le donne del mondo. Madonna. E che ringrazio Dio che oggi è rimasta bocca asciutta. Ringrazio Dio che oggi è rimasta bocca asciutta. Allora, rimasta da su, per favore. È Madonna che ha offeso le donne, non è fuori dalla fascia protetta, ma insomma. Ha ragione Sallusti, l'unica cosa sessista detta durante la campagna elettorale l'ha detta Madonna, con quella offerta di fare un pompino a chi avrebbe votato Clinton. Mi sembra abbastanza evidente questa cosa qua. Ed è rimasta bocca asciutta, beh, questa è la battuta in... durante la serata di Vespa, con Vespa che è rimasto un po' interdetto, hai visto, no? Sì, però l'ha detta con finezza anche. Beh, perché... è rimasta bocca asciutta e finezza. Vabbè, non occorre spiegare la battuta, dai, è chiara. Ma che sei? Papa Giovanni, che sei? No, cioè, non è rimasta sono bocca volgare, asciutta. Non abbiamo sono detto volgare. Qualsiasi beh, cosa. Chiaro, ma magari in prima serata la Vespa, ma che cazzo dici? No, dico che l'ha detta, è una un calambur, dai, sì, una battuta calambur, un po'. No, no, in carriola, il calambur. Non occorre spiegarla, però, nel dettaglio. Occorre dire tutto quello che uno vuole dire, non è che occorre spiegarla, non occorre spiegarla. Che vuol dire ancora spiegarla? È rimasta bocca asciutta, che è chiaramente abbiamo una battuta capito, sul abbiamo pompino capito, della cosa. Ecco, vabbè, avevamo capito, non è che c'era bisogno di non c'è bisogno. Sottolineare non c'è per mai forza bisogno. La parola in sé. Non c'è mai bisogno. Allora, il sindaco, il sindaco di Cascina, che si chiama Ceccardi della Lega, ha mandato via 14 migranti dalla sua città che avevano un programma di protezione, eccetera, eccetera. No, ma prima di... questa è la premessa, eh? Il sindaco della Lega, che è una donna, la Ceccardi, te la ricordi, la Ceccardi, una molto battagliera, eccetera, pupilla di Salvini, ha mandato via 14 migranti. Quella andrebbe arrestata, quella lì, no, la Clinton. Noi qui a Cascina abbiamo più di 90 profughi, meno questi 14 che andranno in altri comuni, e quindi abbiamo rispettato l'impegno di diminuire l'accoglienza sul nostro territorio. Abbiamo mantenuto l'impegno di diminuire l'accoglienza sul nostro territorio. La reazione del signor Bauro, che non fa l'amministratore, come sapete fa il vignettista, insomma il disegnatore, lo scrittore, il cazzo che è. A me questa sindaca mi fa letteralmente schifo. Sono schifato da quello che ho visto, sono schifato da quello che quella persona ha detto. Forse il termine è proprio persona, ma stiamo parlando di 90 persone, 14 persone espulse, 14. Si vanta di aver espulso 14 persone dal suo paesetto del cazzo, scusa no, se te lo dico. Ma quale tolleranza? Come fai viva a parlare la tua di tolleranza? Quelli che quando tolleranza, l'intolleranza arriva a questi livelli. Questa è chi predica tolleranza. Parliamo le cifre, allora diciamole tutte. Solo nel 2016 nel Mediterraneo sono annegate più di 4.000 persone. Se c'è un'invasione, vero. Quella è l'invasione dei morti nel Mediterraneo. Questo Mauro che dice Cascina paesetto del cazzo, e a me il sindaco di Cascina mi fa schifo. Ma andrebbero sanzionati i comuni che si rifiutano di ospitare allora, i migranti. Sei d'accordo con Mauro? Non su Cascina, no, paese sul, del cazzo, ma sul giudizio. Il sindaco che fa schifo, sì, sei d'accordo? No, fa schifo non lo dico. Ma hai detto che andrebbe arrestata prima. Andrebbe arrestata, nel senso che andrebbero arrestata, ma hai detto? Sì, l'ho detto come una battuta, come la nostra solita iperbole, ma non dico che mi fa schifo, che le persone non mi fanno schifo, ma dico semplicemente. Per quello che ha fatto ti fa schifo? Magari. No, dico che quel comune andrebbe, come tanti altri che rifiutano, sanzionato. Cioè, sanzionato. l'Europa sanziona, dovrebbe sanzionare quei paesi che rifiutano i migranti. Quella ha fatto una cosa che è stata promessa in campagna elettorale, diminuire il numero di migranti in città. No, un momento. Quando noi diciamo all'Europa, gli altri paesi d'Europa si riprendano i migranti. Ma che sei diventato un po'... Quando noi diciamo... Ma non sei al Parlamento europeo. Spiegare. E allora cosa devo dire? Sono andato vaffanculo, ma pezzo no, di merda. Non devi dire questo, allora, assolutamente. Sei d'accordo o no? Non sei d'accordo. Dico che i comuni vanno sanzionati, così come l'Europa sanziona i paesi dell'Unione Europea che non si fanno carico tutti della distribuzione dei migranti, così dovremmo fare noi con i nostri comuni che si rifiutano di ospitare i migranti. Grazie, onorevole Parenzo. Traffico. No, è una considerazione. Non capisco perché tra un traffico e l'altro c'è di mezzo la zanzara. Non si potrebbe fare tutto traffico. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta La Zanzara. Massimo da Milano, vai Massimo. Dimmi. Ho sentito David Parenzo stava poco bene, che beveva molta acqua. Bevo sempre moltissima acqua, io ogni giorno bevo almeno 2 litri di acqua. Non è che avevi ieri una sete particolare, perché sai, quando si beve molta acqua, che si vuol bere molto, c'è qualcosa che non va a livello di fegato. Ti ringrazio, ho fatto gli esami, il check up completo, tutto a posto. Il risultato perché per dici ora. Che secondo te c'è il fegato che gli rodeva. L'elezione di Trump gli è andata per traverso. E allora pensavo questo sicuramente non mi ha messo di buon umore, questo è certo, però. Insomma, eri un po' triste. No, perché ti volevo eventualmente consigliare un bel bicchierone di olio di ricino, perché almeno è una purga che, al contrario di quelle del... Quello veniva somministrato nel ventennio dagli amici di Gio Formaggio e da altri protagonisti della nostra... Nel ventennio fascista veniva veniva somministrato l'olio di ricino, esatto. I tempi sono cambiati e comunque in vendita in farmacia, e alle persone che sono un po' disturbate a livello di intestino, di fegato, eccetera, viene consigliato. No, ma non, perché, ripeto, non è... le renderò un dispiacere. Ti sta dando un consiglio, siccome c'è il fegato che ti rode per Trump. In realtà, esatto, è bravo. E c'è una delle, ti sta indicando delle sostanze, delle cose per farti passare. Non c'è la controindicazione della molecola chimica. No, ma io la ringrazio molto e proverò a tenere in considerazione questo suo consiglio. Per ora mi alimento ad acqua, 2 litri d'acqua, ma questo l'ho sempre fatto. Quello è comunque la buona regola. Bravo, però esatto. Prendersela troppo. Peraltro, scusa David Parenzo, io dimmi. Mi tocco perché tu porti un po' iella. Stia bene Massimo, mi stia scusami, bene. Io ti ho sentito scatenato, la Brexit non passerà mai, e il giorno dopo tu Moggio era passata la Brexit. Ti ho visto in televisione ad un certo momento, il giorno prima delle elezioni americane, sicuro, come tutti i giornalisti, come tutti gli apparati, che Clinton ce l'avrebbe fatta. Mi sembra un po' poco per dire che uno porta sfiga. Ernesto da Roma. Ma se fosse così, le auguro una buona serata. Ernesto da Roma. Siccome le voglio bene... Ho detto se fosse vero questo, io comunque le auguro una buona serata. E poi quel che succede. Mi stai augurando di finire sotto un tram? O di fare un incidente sotto un tram? No, non auguro niente di tutto questo. Siccome lui ha detto che 2 più 2 fa 3, io ho detto, io non credo, perché anzi mi dicono il contrario, che in genere porto fortuna, per cui va bene. Ma qualora fosse, visto che lui lo ha detto, io gli auguro una piacevole serata con sua moglie. Ernesto, vediamo. Da Roma, vai. Eccomi, Luciani, buonasera. Dimmi, Ernesto. Io volevo dire a te, a quel mongoloide mediatico però di Parenzo. Non dica magari, ecco, può insulti pure. Mongoloide mediatico è un complimento. È brutto che usi la parola mongoloide come dispregiativo. Glielo dico questo, semplicemente per la sua. Glielo dico per la sua. Ho sentito che buona nomia. Trump, ho avuto una botta di paura molto più forte di quella quando ho avvertito la schicchera di magnitudo 6.5 dei 10 giorni fa, una settimana fa, io abito a Roma, in un attimo ha ballato tutto. Ma un l'altra attimo, mattina, quando ho sentito che ha vinto Trump, ho avuto un attimo di panico. Poi ci ho ripensato, ho ascoltato un po' di commenti, mi ha detto, ma sì, ma chi se ne frega, basta con questi buonismi inefficienti, incompetenti e cretini di sinistra che stanno rovinando l'Europa e l'America. Ma facciamo i muri, mandiamo per gli immigrati, i Rom, e basta con sta gente che ci rompe le scatole da 30 anni, ci sta facendo invadere, sta pregiudicando il futuro nostro, dei nostri figli e dei nostri nipoti, di questi culatori di merda. Ecco, c'era la signora che suggeriva via. Sotto. Non sono infatti populismi, questo no. È il futuro. Ma chi è deve andare via? Chi deve andare via? Ernesto, scusa. Questa classe dirigente, come così Trump ha mandato via Hillary e i sistemi filobancari americani, anche in Europa, in Italia bisogna mandare via, tranne in Italia, anzi, mi correggo, in Europa, in Germania, perché in Italia, come ha detto Sgarbi, sono d'accordo, Trump ce l'abbiamo pure noi e si chiama Matteo Renzi. Matteo Renzi è veramente un trampino italiano e quindi però in Germania soprattutto lì devono mandare, deve cambiare la politica, bisogna fare le barriere, fermare i migranti, no? Barriere, ci hanno rotto le scatole, non vogliamo essere invasi, non vogliamo, evviva, come si chiama questo? Ernesto, Ernesto da Roma, evviva Ernesto da Roma, evviva Ernesto, questi sono i limiti della democrazia, cioè sarà ricoverato a breve perché ha bisogno di grosse terapie. Lei parla di, un provvedimento di ricovero perché lei nella sua vita di un TSO posso firmare per questo, lei quando nello... volete mi chiamate, così sì, arriva l'ambulanza, basta anche chiamarla una volta ogni tanto. Ma perché ha bisogno di lei di che... lo può salvare. Ma lei di che cosa si occupa nello specifico, oltre del delirio? Diciamo. Cazzi miei di cosa mi occupo, ecco. Va bene, lei è cresciuto, ma lei ha avuto un'infanzia felice? Lei ha avuto un'infanzia, ecco. Attenzione, attenzione, perché quella tosse la vedo brutta. Quella tosse la vedo pericolosa, lei sa che io porto fortuna, quella tosse mi sa, quella tosse andate che via, ho vogliamo... sentito non la sento bene, io fossi lei mi farei fare subito una radiografia perché quella tosse non la vedo bene, sa? Io ti firmo il TSO subito. Io quella tosse, ma non fermo, riesce a farlo però, Ernesto, perché fermo. Secondo me non arriva domani con quella tosse. Fermoli, allora c'è un prete o ex prete che si chiama Don Giorgio De Capitani. Che forse è stato, diciamo, che forse è in pensione o forse no, non lo so, comunque è ancora ufficialmente un prete, il quale dice che Trump andrebbe ucciso. Per Trump non ci sarebbe nessuno disposto a farlo fuori fisicamente, quello che diceva che Berlusconi era un criminale, un porco e Salvini un pezzo di merda, eccetera. Per Trump non ci sarebbe nessuno disposto a farlo fuori fisicamente. Chi? Non dimentichiamo che gli americani hanno sempre ucciso i giusti e non i criminali. Cioè, vorrebbe qualcuno che uccida Trump. Trump è da uccidere. Secondo Don Giorgio De Capitani. A dopo, signori miei. Cruciani, ma qua l'astinenza. Tanto non trombavi lo stesso. Io Luigi Pardo, confesso che ho perso il numero delle stagioni. Hai perso il conto perché abbiamo una marea di cose: la Champions League, l'Europa League, il campionato, il calcio internazionale, e la Formula 1 che finisce, e il moto mondiale che finisce, e il ciclismo che non finisce mai, il MotoGP, il campionato di calcio, e poi e tutti i giorni, tutti convocati. Guarda, è facile, tutti i giorni, tutti convocati, dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 15:30 c'è anche De Luca. C'è anche De Luca, è il nostro autore, certamente. Siamo ormai una squadra affiatata, anche se ho perso il conto delle stagioni di tutti. Una squadra fortissimi. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta La Zanzara. Questa è l'Italia, un paese di merda, un paese di merda a cui si dà un anno a un poliziotto che spara giustamente all'albanese. Primo, peccato che non li ha ammazzati tutti. Secondo, lo zingaro che ti entra in casa, che t'ammazza, che 20 giorni ed è fuori. 20 giorni nella peggiore delle ipotesi, se non la sera stessa o addirittura neanche portato dentro. Questa è l'Italia di merda, cazzo. Cruciani, tua champagne, Parenzo, lavoro mio, Lady Gaga, Madonna e tutti i radical chic, Amalox, forza Trump. America morale, allora facciamo tutti i ricchioni a San Francisco, tutti i messicani in New Mexico, tutti i negri in Alabama e tutti gli arabi a casa loro e vaffanculo, America morale. Cruciani, come godo, mamma mia, con questo Trump, che bello, rotolone biscotti, solo e via, ciao grande. C'è un popolo, questo sì, nascosto, Parenzo, un popolo che non è considerato dai sondaggi, un popolo che non entra nei giornali, nei salotti, nei quartieri radical chic, un popolo che non sa nemmeno chi è Beatrice Borromeo, la quale dice che Veronesi è morto 24 ore prima e non ha visto, e meno male che non ha visto il mondo guidato da Trump. C'è un mondo sommerso di gente senza voce, di no, gente senza voce. C'ha la voce, come qui parlano di ogni gente giorno. Senza voce. Non mi pare, mi pare non che qui considerata parlano anche troppo. Dai salotti, dalle trasmissioni, non ci sono, e noi siamo qui a dare voce a questo popolo, sì, a dare anche la voce anche, alle scorregge, anche, alle scorregge, anche, alla pancia. Allora, torniamo calmi per un attimo. Allora, Don Giorgio De Capitani, ricapitoliamo la vicenda di Don Giorgio De Capitani. Ah, a proposito, hai sentito l'ascoltatore di prima sul carabiniere? Lui l'ha chiamato poliziotto, no? Le considerazioni che ha fatto sull'Italia, che secondo lui è un paese di merda perché condanna un poliziotto a un anno, eccetera. Più tardi, se riusciamo, avremo un collegamento con l'avvocato del carabiniere. L'avvocato del carabiniere che ci racconterà, credo, da come l'ho sentito prima per telefono, in maniera molto pacata, molto sobria, com'è avvenuto tutto l'incidente, i quattro colpi sparati, l'albanese morto, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, Don Giorgio De Capitani ha scritto, un prete, ricordo, Trump è un gran bastardo uscito dal nulla, o meglio, da un mondo fatto di soldi e di puttane. Così, eh? Noi italiani dovremmo anche tacere, visto che per anni e anni un altro bastardo, un porco, un ladro, un farabutto ha preso per il culo milioni di italiani, ma non ha fatto tutto da solo, è stato sorretto da altri bastardi e farabutti, ovvero dai sciellini e dai leghisti. Perché dimenticarlo? In fondo Salvini è coerente, politicamente ha fatto parte di quella mandria di porci e farabutti guidati dal porco, porco in maiuscolo, per eccellenza. Ho sempre sostenuto e tuttora sostengo che i criminali vanno uccisi fisicamente, oltre che politicamente. Hitler andava ucciso prima che combinasse ciò che ha combinato. Per Berlusconi doveva intervenire direttamente il Padre Eterno e renderlo disteso sul letto, roso dai vermi fino alla morte. Per Salvini e Grillo basterebbe una pedata nel culo e buttarli nel mare dove ci sono i pescecani. Ce l'ha pure con Grillo questo qua, eh? Ma per Trump questo? Non ci sarebbe nessuno disposto a farlo fuori fisicamente? Chi? Non dimentichiamo che gli americani hanno sempre ucciso i giusti e non i criminali, che l'Europa sia compatta in questo momento e isoli l'America facendola morire di fame. Questo è malato di mente. Totalmente. Ma l'America è troppo ricca, arricchita con il sangue di nazioni che essa ha munto, distrutto o calpestato. Don Giorgio De Capitani, ma noi ricordiamo qualche exploit di Don Giorgio. Perché ce l'ho con la Reagan? Lo so, i leghisti mi odiano e vorrebbero farmi una saponetta come i tempi del fascismo. Ma non basterebbe un milione di saponette per pulire il culo di quelli della Lega. Allora, dobbiamo dire, caro Parenzo, che si stanno moltiplicando negli ultimi giorni i casi di preti contro la Lega. Di parroci, io in realtà penso che hanno tutto il diritto di dire, di gettare merda nei confronti della Lega, ma non perché gli do ragione, semplicemente perché hanno, certo, sono uomini di chiesa, non sono né appunto, conduttori radiofonici né politici, sono uomini di chiesa. Devi sapere che c'è a Firenze un parroco che è anche legato a un'associazione come Libera, un'associazione di quelle che si batte contro la mafia, un parroco che è anche stimato, che su Facebook conversando con dei suoi amici, ha detto delle frasi, te le riassumo perché sono abbastanza brevi. Le frasi sono queste: Salvini infame. Un'altra frase è napalm su Salvini. Sai che a Firenze ci sarà la manifestazione della Lega, credo sabato prossimo, fra due sabati, non me lo ricordo. Sì. Questo un prete. Gli è partita la frazione. Questo un prete. Un altro prete, come sappiamo già nei giorni scorsi, ha detto che Salvini è incompatibile con l'essere cristiano, che è un'altra cosa, ovviamente, su cui tu sei d'accordo, peraltro. Allora, Marco da Modena, vai, Marco. Sì. Niente, telefonavo per quel fenomeno di Roma che ha usato il termine mongoloide. Ah, Ernesto. Non devo difendere Parenzo, che si sta a difendere da solo, però... Io sono genitore di una persona portatrice di handicap. Pazzesco, e ha la sindrome di Down. E quella persona lì di Roma è un ignorante. Sì, assolutamente. È vergognoso. Però Marco, vergognare. Mi posso permettere di dirti una cosa? Non voglio difendere Ernesto, che forse si difende bene è da il solo. Il modo con il quale l'ha detto Cruciani, dispregiativo. No, ma perché la gente ormai si permette di dire qualunque cosa. Marco, scusami, mi hanno scritto anche altre persone che ovviamente incazzate, probabilmente genitori di figli ma anche che hanno dei problemi. Non occorre essere genitori di figli che hanno quella sindrome per essere indignati. Mi hanno chiamato. Che sono persone meravigliose. Ma non c'è dubbio, ma io la penso come te. Ma io credo che anche Ernesto la pensi come te, no. E come me. Sì, e io credo no, che non c'è da giustificare. È una persona che ha usato le parole in modo sbagliato ed è una persona volgare e cattiva. Ha utilizzato quel termine mongoloide non per insultare le persone disabili, anche se forse indirettamente l'ha fatto, ma per attaccare Parenzo. Bisogna cominciare a imparare che l'insulto... Cruciani, non sono del tutto d'accordo con te, perché il tono che hai usato è stato cattivo. Guarda Marco, fino a poco tempo fa fino a poco tempo fa nel linguaggio corrente, purtroppo io per esempio credo di non averlo mai usato, o comunque crescendo non l'ho più usato come termine, anche se sai non è che mi distingo per usare dei termini forbiti, cioè io spesso utilizzo dei termini comuni, correnti del linguaggio comune, spesso si utilizzava prima la parola mongoloide, lo possiamo ritrovare in moltissime liti anche televisive, tu sei un mongoloide, tu sei un handicappato, eccetera eccetera. Per fortuna nel tempo questi termini, come il termine negro, come altri termini, non si usano più, perché è cresciuta la sensibilità nei confronti dei down, delle persone che hanno dei problemi, eccetera eccetera, come tua figlia. E io credo che sia in questo caso giusto che queste parole non vengano utilizzate. Non voglio difendere Ernesto, mi dispiace se ti sei offeso, credo che lui, sbagliando in questo caso, perché ripeto, mongoloide è un termine sbagliato, credo che non abbia voluto però offendere tua figlia e altre persone, no? Tu non credi? No, io invece rimango che il tono che ha usato era un tono offensivo, io non ci credo, lo dovrei guardare negli occhi. La voce che ha usato, il tono... Questi sono i famosi leoni del telefono, capito? No, sono i famosi leoni del telefono, come gli idioti della rete. Ma sono che c'entra? Quelli sono due cose diverse, questo ci mette la faccia. Ma ci mette la faccia? Telefono, il numero di telefono, e pensano di poter dire qualunque cosa e offendere chiunque. È gente vergognosa, appunto, è gente schifosa. Ma non è vero. Certo, no, non si può giustificare tutto. No, ma io non sto giustificando niente, ho detto semplicemente che secondo me non volevo offendere i down e le persone disabili. È gente vergognosa. Qui ormai è concesso tutto. Marco, grazie, ciao. Ciao. Giacomo, provincia di Firenze, dai. Salve, allora, io volevo tornare un attimo sulla notizia del sindaco di Cascina. Sì. Allora, io penso che le persone cominciano a perdere un po' di vista qualsiasi... Tu sei di Cascina? No, sono della provincia di Firenze, Cascina è provincia di Firenze. Allora, mi hanno mandato però degli articoli molto chiari sulla vicenda di Cascina, cioè il sindaco ha detto non mi mandate più migranti e in realtà gli hanno raddoppiato il numero di migranti, cioè gli hanno mandato più migranti di quelli che lei aveva chiesto, comunque aveva detto a me non mi mandate più migranti perché non possiamo sopportarne di più. Mettiamoci d'accordo su una cosa. Così dicono, così leggo. Va bene, ma può essere benissimo ma non mi pare che abbia fatto niente di eccezionale, niente di strano il sindaco di Cascina. Il sindaco di Cascina ha semplicemente, la Lega ha un programma elettorale, cioè che è quello di ridurre la presenza di migranti in Italia. Sì, da caso che il paese è uno. Allora, qui si banalizza, bisogna contestualizzare però un attimo. Allora, il problema della migrazione non è un problema delle persone che si rompono, scusa il termine, coglioni di stare nel loro paese e vengono qua perché gli fa piacere vivere da un'altra parte. vengono qua o perché sfuggono, vedi, dalla Siria, da una guerra. Ma lo sappiamo, oppure... questa, se non ci farà la lezioncina sull'immigrazione. Lo sappiamo la percentuale minima in realtà di veri e propri rifugiati politici. Cioè, lo sappiamo che è una percentuale molto bassa. Il resto delle persone scappa per mille motivi, tra cui la fame, l'economia, guadagnare di più, andare in un paese ricco, eccetera, eccetera. Ma ti sembra un motivo da poco questo? A me non me ne frega un cazzo, quelle persone lì non possono venire qui. Punto e basta. Perché non sta scritto da nessuna parte che uno che ha fame, altrimenti dovremmo accogliere tutti, altrimenti portiamo tutti quelli che dicono che vogliamo arrivare in Italia, portiamoli direttamente senza far guadagnare gli scafisti, così facciamo prima, no? Perché sobbarcarci tutti questi casini? Volete venire in Italia, voi che avete fame, che pensate di voler vivere in Italia o in Europa, perché magari l'Italia è un paese di transito, avete fame, siete economicamente in difficoltà, vivete in paesi poveri, vivete in qualche baraccopoli, benissimo, vi accogliamo tutti. Altrimenti qual è il punto? Scusa, spiegami. Questo, ma non è questo... Non è questo il punto. In altri paesi ci sono regole ferree su questo. Se tu non hai un lavoro, non puoi entrare. Non è una cosa razzista, è una cosa di sinistra. È una cosa. Non è vero. L'ordine è di sinistra. Le regole, le tante. No, le regole, la sinistra dice le regole. Questa è una roba di sinistra. Profondamente di sinistra. Assolutamente. L'accoglienza indiscriminata è una roba dei ladroni. No, di ladroni, di ladronerie, perché ci mangiano sopra. Una cosa di sinistra è dire che ci vogliono regole certe per chi entra e chi non entra. Questa è una roba di sinistra. Il resto è roba di tapponi e di ladri. Ci sono regole molto certe. Sì, in Italia. Le regole certissime. In Italia c'è il colabrodo, c'è altro che c'è. Ma quale? C'è un'invasione? No. C'è un'invasione. Ho detto che c'è un colabrodo, l'ho detto. Stai invasione. Dicendo che c'è non un'invasione. Ho detto un'invasione, ma un colabrodo. C'è un'invasione. No, i numeri ancora non lo dicono. C'è però un'invasione. Però c'è un colabrodo. Però c'è un colabrodo. Migranti che invadono. Colabrodo, ho detto, colabrodo. C'è una gestione dei flussi che per ora peraltro è stata fatta anche in modo eccellente, perché non mi pare ci siano delle rivolte, delle rivolte di migranti. Non ci sono, non mi pare non ci che sono in quest'ultimo periodo, per fortuna, ci sono delle piccole comunità con 10-20 persone, guarda, fermo. Davano Terme, 10-20 piccoli fermo. Comitati di gentuncola che... Davide, io non so se ci fai o se ci sei. Se ci fai, sei un genio. Se ci sei, sei veramente un cretino. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara. Il massimo della vita in aereo, sulle tratte internazionali, fingersi vegani per essere serviti prima degli altri. Funziona alla grande e si mangia in media un'oretta prima, senza dover attendere chicken o pasta, e alla fine i piatti sono anche molto più ricercati. Fingersi vegani è un must in aereo. Questo è buono, Parenzo, un buon consiglio. Allora, se volete essere serviti prima, quando fate magari dei voli intercontinentali, dei voli importanti, voi miserabili che siete all'ascolto, miserabili secondo Parenzo, naturalmente, ma non no, credo all'ascolto. Che... No, i chiamanti. I chiamanti, ma non credo che quelli che tu chiami miserabili facciano voli intercontinentali, no? Sì, li fa. Beh, perché no, certo. No, sì. Magari non li fanno perché tu li consideri anche dei poveracci, oltre che dei miserabili. Non mai è detto, detto non anzi, è detto. No. Allora, no. Ma chiedete un menù vegano, fottetemi tanto le robaccia, chicken, pasta, cioè menù vegano verrete serviti prima, così segnala questo preziosissimo ascoltatore. Allora, in un articolo sul Fatto Quotidiano in cui viene ripresa la questione della mia castità per 2 mesi, no, Parenzo? Sì, leggo alcuni commenti. Un signore che si chiama Luca Di Pietro, senti, per come sta messo male, la scommessa impossibile per Cruciani sarebbe stata quella di riuscire entro 2 mesi a fare sesso con una bella donna consenziente, senza poi dover lasciare 100 euro nel comodino. Magari sul comodino, non nel comodino, ma va bene lo stesso. Un altro tizio che si chiama Antonio Raddi, signor Antonio Raddi, a guardarlo bene non gli costerà molta fatica rinunciare al sesso. Per la masturbazione invece si prevedono grandi sofferenze. Mi fanno molto ridere questi signori. Ti segnalo che la capitale, Roma, il posto in cui vivi, è la zona d'Italia con il maggior consumo nel 2013 di Viagra. Ultimi dati 2013. Sono state vendute nel 2013 570.000 pasticche di Viagra. 570.000 pasticche di Viagra. Molte, tante. Io andrei a Messina dal signor Nino da Messina, vai. Buonasera Luciani. Buonasera, buonasera Nino. Dimmi. Buonasera anche al signor Parietti. Sì, va bene, ma adesso lasciamo perdere il buonasera. Io non l'ho mandato a quel paese, non l'ho mandato a fanculo ancora, perché voglio essere accogliente nei suoi confronti. Dica. Sì, non lo dico, io sono uno di quei poveracci miserabili. Volevo dissertare. Beh, di una non cosa. Si butti così giù. Dissertare, vediamo di cosa vuole dissertare. Dissertare, io, il fatto dei terremoti mi hanno chiesto. I terremoti, no? Cioè, chi ha chiesto? E allora noi abbiamo praticamente. Ma chi ha chiesto i terremoti, scusa? Io la sua segretaria. Ma nessuno ha chiesto, è lei che vuole intervenire sui terremoti. Non è, non è ah, la mia. Già, vero, vero, vero. Vero. Ha una lucidità relativa la sua, però. È molto preciso. Non è preciso, è la verità, cioè. Allora? Praticamente c'è un sacco di gente che sta sfollando dall'Africa, giusto? E viene qua, no? Sì, dimmi. Dico bene? Beh, sì, certo. Quindi sì. C'è un movimento che ci dicono i geologi dell'Africa che si muove verso qua, e quindi tutto questo peso umano, che comunque è peso di tonnellate, va a finire in Italia. Sì. Con il movimento delle cose, e sì, praticamente il peso sull'Italia è sprofonda, capito? Ma tu stai parlando sul serio? Cioè, pensi davvero che il peso degli extracomunitari 160.000 sono questo arrivati? Questo era quello che io ho detto per poter intervenire in diretta. Ah, la cazzata, sì, bene. Sì, no, ma non ci interessa quello che lei ha da dire. Cioè, questo qua, noi l'abbiamo messo in onda perché sappiamo benissimo che lei ha utilizzato questo trucchetto. E le posso dire sinceramente che lei è un imbecille, perché viene a rubare a casa dei ladri. No, ma noi siamo più ladri di lei. Noi siamo molto più ladri di lei. Ma lo so che siete voi. E allora vada a fare in culo. Alessandro da Perugia. Giuseppe, buonasera. Dimmi. Faccio il medico e sì, volevo fare questo commento. Intanto sono un pochino così nauseato da questo falso buonismo nei confronti dei migranti. Ti racconto la mia esperienza velocissimo. Sì, sì. Ho avuto circa un anno fa, mi chiamano per un'urgenza, arrivo, c'è un ragazzo, insomma un migrante, faccio quello che devo fare, ovviamente non do i dettagli per motivi di privacy, e esce fuori, vabbè, che un migrante ovviamente non ha l'assistenza. Sì. E quindi non paga, vabbè, gli finisce. Dopodiché si presentano due soggetti del ministero, da qualche parte, insomma così, che praticamente mi dicono che questo tizio invece in realtà è arrivato sui col barconi, ma che è figlio di un personaggio di un paese nordafricano, in pratica che non voleva fare il militare, e che quindi l'hanno imbarcato e mandato fuori dalle scatole in questa maniera. Sì, questo racconto per che cosa, scusa Alessandro? Questo racconto perché non ha pagato una lira, chiaramente, i soldi suoi li abbiamo pagati io, te, parenze, compagnia bella. Vabbè, la sanità pubblica, io, diciamo. Tre giorni prima io mi sono pagato, lavoro in ospedale, ripeto, faccio il medico, per mia figlia di 13 anni, per un esame del sangue, 140 euro. Ora, io ritengo... Sei un pochino incazzato per questa cosa. Cioè, sono sul momento sei incazzato. Cioè, tu fai il medico, esatto, e noi, stai dicendo, noi curiamo gratis gli immigrati, che ovviamente non hanno un euro, per essere curati. È nostro dovere da medici fare tutto quello. E però non solo, è anche un nostro interesse, oltre che dovere. Interesse, cioè, non lo so, fossimo perché semplicemente dei cinici... Di qualcuno che ci no, mangia, dico, ci fossimo semplicemente dei cinici, anche se non avessimo l'aspetto umanitario, che non chiedo che nessuno deve avere, ma anche fossimo semplicemente custodi dei nostri interessi. Ma che è un nostro interesse che le persone che vengono qui siano in salute e non attacchino, come dice qualcuno, le malattie. Sì, allora, sì, mettetevi d'accordo. Sì. No, però lui sta dicendo, Alessandro che non sarà un esame nulla del sangue a mettere questo in crisi il sistema sanitario nazionale. Ma l'ho pagato io, però, voglio dire, anch'io l'ho pagato e anch'io pago gli esami di 13 anni, a 13 anni. È minorenne, una ragazzina, fa un esame del sangue per un motivo serio, per non capisco per quale motivo. Vabbè, quello è strano che non ci sia l'esenzione, però. Vabbè, lasciamo perdere il caso particolare. Non ci sia l'esenzione, no? Su via, ragazzi, non scherziamo. No, io non lo so. Se è un caso particolare, è strano che non ci sia l'esenzione. Non entriamo nel tecnico. Ma entriamo nel tecnico, sennò diventa uno spoiler. Alessandro sta dicendo: Alessandro sta dicendo una cosa. Mia figlia paga. Un immigrato. Bisogna capire perché. Lasciamo perdere. Un immigrato. No, è fondamentale, però. Se uno dice, se no, uno qualunque cosa dice. Perché? Ma non lo so. Intanto paga. Perché intanto il servizio nazionale, il Servizio Sanitario Nazionale, in genere passa molti esami, peraltro, per chi e ha malattie croniche. Invece, in questo caso, non li passa. Da capire perché. Ma anche perché saranno affari suoi. Ma intanto, Alessandro dice che lui, la figlia, non paga. Beh, la figlia paga, mentre l'immigrato non paga ed è incazzato. Gli vuoi dare torto? Io non gli do. Ma no, voglio capire meglio la cosa. Non so cosa. Sì, detto così, una vergogna. Ok, una vergogna. No, mi spiace. È un esame come dire, specifico. Noi sono, non voglio, lei ha chiamato, quindi è un esame specifico, è un esame che il servizio sanitario non rimborsa. Perché non lo rimborsa? Alessandro. Per una questione di reddito suo? Sì, fallo parlare, se no è difficile. Scusami, ci sai parlare? Sì, prego, sto prego, dicendo, prego. Non è un esame salvavita, chiaramente. Ecco, questa prima ma cosa. Comunque, vabbè, ma comunque... No, no, no, ma sono d'accordo, ho capito, d'accordo. Ribadisco, io il mio dovere l'ho fatto da medico. No, ho capito perfettamente. No. Alessandro, ciao, ciao, ciao. Allora, caro Parenzo, siamo in collegamento con l'avvocato sì. Alessandro Scaloni. Bene. Che è l'avvocato di Mirko Basconi, il carabiniere, sì. Che è stato condannato a un anno e in più c'è anche un'ipotesi di risarcimento, perché la difesa di quel ladro romeno che è morto di 24 anni ha chiesto 2 milioni e mezzo di risarcimento al carabiniere. Eppure gli avvocati vogliono i soldi, gli avvocati del beh, romeno. Questo è normale. Avvocato Scaloni, buonasera. Buonasera. Senta, come sono andati i fatti? Ovviamente secondo voi, no? Cioè, l'appuntato si è trovato sì. I fatti sono pacifici per accusa e difesa, cioè? La ricostruzione storica. Sì. Cioè, questa era una banda di albanesi che stava facendo una serie di furti nelle abitazioni. Sì. Dalle 18 circa arrivano le chiamate di cittadini che trovano albanesi, queste persone che escono dalla loro casa, sì. E segnalano una targa di una Mercedes. Sì. Viene allertata la pattuglia, accertano che quella è una Mercedes rubata 4-5 giorni prima. Sì. Poco dopo, circa una mezz'ora, arriva un'altra chiamata da un'altra casa dove dicono sono usciti da casa mia sempre la Mercedes. Sì. Si mettono alla ricerca della Mercedes, la incrociano nel senso opposto di marcia, fanno inversione, provano a seguirla, ma quello era un SUV Mercedes 3000 lì. Sì. Loro avevano una Giulietta, perdono le tracce, trovano questa macchina parcheggiata su una strada buia, ferma al lato della strada, sì. Scendono in tre pensando che questa macchina fosse vuota, sembrava vuota, il capo pattuglia si avvicina con la pila, all'improvviso il conducente che era nascosto al buio dentro la macchina parte suonando il clacson ripetutamente con un gran botto che nessuno ha capito cosa si trattasse, sì. Rischia di investire due dei carabinieri. Basconi, che nel frattempo era andato dietro la macchina, fa 3-4 passi verso la macchina che sta scappando, sì. Con la pistola spara 4 colpi dei 15 che aveva in canna nel caricatore. Cioè non è stata una raffica, prende il mitra che pure aveva a disposizione, quindi sceglie di prendere la pistola. Questi 4 colpi colpiscono il pneumatico posteriore sinistro, sì, il sì. Cerchione, la marmitta, sì. Il quarto colpisce per terra, quindi anche sì. Più in basso degli altri, rimbalza e colpisce l'albanese che era seduto nel sedile posteriore, sì. Sì, e lo trovano con i guanti ancora infilati e il sacchetto pieno di refurtiva. Condannato di un anno è per omicidio colposo non scriminato dall'uso legittimo delle armi. Cioè avrebbe usato le armi in maniera maldestra. Cioè questa... possiamo ipotizzare, visto che c'è stata la condanna, che secondo il giudice, secondo il PM, sì. Non doveva in alcun modo usare le armi, quindi non doveva neanche permettersi di sparare alle gomme, lasciarli andare via. Cioè, ma veramente è così? Apparentemente è così. No, ma avvocato, ci sarà un codice di comportamento in questo caso? Cioè le forze dell'ordine in casi come questo hanno evidentemente, non dico un manualetto da seguire che devono che aprire manualetto? E dire quello spara a ladri in fuga. Allora a questo punto che cosa facciamo con i carabinieri? Che cosa devono fare secondo lei? Secondo me è assolutamente un comportamento doveroso. Cioè il miglior carabiniere del mondo avrebbe fatto così. Cercato di fermare sparando alle gomme una banda di ladri che aveva ripetutamente compiuto furti nelle abitazioni, e dopo l'episodio i complici che sono fuggiti hanno fatto altri due furti rubando una macchina entrando dentro un altro garage. Erano chiaramente un pericolo questi qua, erano un pericolo evidente, immediato, dove avevano il dovere di fermarli, di impedire che consumassero altri reati. Non abbiamo un carabiniere che ha sparato con il mitra altezza uomo, no, però scusa Parenzo, l'altro giorno ha detto che questo all'impazzata. L'altro giorno ho detto che da come sembrava il racconto, sembrava che appunto i 4 colpi, non uno centrato, ma i 4 colpi fossero sparati un po' ad minchia, ma io ho detto no, non guardi, all'impazzata. Sono dei colpi incredibilmente precisi nonostante la situazione concitata. Scusi, allora perché un anno di condanna? Cioè, mi spieghi bene, secondo lei... Allora, cioè il PM dice in quella situazione, siccome i due colleghi non erano stati investiti e quindi non c'era un pericolo immediato, rischiato di morte di altre persone, perché davanti alla macchina dei fuggitivi chiaro. Non c'era un bambino con la mamma che stava per essere investito o ucciso. Io non potevo usare le armi in alcun modo, dovevo risalire sulla mia tipo punto e provare ad inseguire nuovamente una Mercedes di 3000 di cilindrata con i ladri che nel frattempo si erano dileguati. Non mi dire che ci hai ripensato, Parenzo, adesso, cioè di fronte a questa cosa ci hai ripensato? Se è andata veramente così e il giudice... Guardi, le assicuro che la ricostruzione dei fatti è condivisa tra accusa e difesa. Il carabiniere adesso lo stipendio lo prende? Lo stipendio lo prende perché l'arma dei carabinieri molto intelligentemente lo difende e lo appoggia dall'inizio dei fatti, dal comando generale in giù. Tutti sanno benissimo che non ha commesso nessuna irregolarità. Come si sente? Si sente, è una persona squisita che ha sempre solamente detto di aver fatto il suo lavoro, il suo dovere, che rifarebbe esattamente quello che ha fatto. Ma è in servizio? È in servizio. Non operativo, immagino. Non operativo, ma... Cioè in ufficio, l'hanno messo in ufficio. È in ufficio. Cioè uno spara, ferma dei ladri e sta in ufficio. Ma com'è giusto, Davide? Uno spara, ferma dei ladri e sta in ufficio. Non esageriamo però, mi pare che la decisione dell'arma... Dovrebbe andare in strada domani mattina. Ho capito che ha vinto Trump, però calmiamoci un attimo, perché mi pare che l'elezione di Trump ti abbia sovraeccitato. Non sono affatto sovraeccitato, l'avvocato ha detto una cosa di assoluto buon senso. Cosa ha detto? Da una parte l'arma dei carabinieri, l'avvocato ha detto semplicemente un fatto, che sta in ufficio, punto. Contento di stare dove sta, quindi esatto, ma ti credo, ma certo, ma lasci stare, perché è sovraeccitato Cruciani quando vede armi e spari. L'avvocato sa benissimo, potrebbe tornare in servizio domani mattina o no. Ma l'arma dei carabinieri, in modo molto responsabile, ha detto in attesa della sentenza definitiva noi non gli congeliamo. Io sto dicendo che secondo me me ne frega dell'arma dei carabinieri, mica sono carabinieri io. In questo caso dalla parte dell'arma dei carabinieri. Ma non mi pare proprio, non stavi affatto dalla parte del carabinieri. Ma dipende dalle dinamiche, io non è che sono a prescindere contro i carabinieri, tutt'altro. Scusi avvocato, la cosa è molto semplice, è in grado di pagare il carabiniere un eventuale risarcimento? Ma non ci sarà. Assolutamente no. Non ci sarà, siamo solo all'inizio. Non ci sarà, un anno è stato condannato, intanto è stato condannato a un anno, poi stiamo parlando di ipotesi. Ma non capisco perché dovrebbe tornare in servizio domani mattina pronto con l'arma sulla fondina, anche se ha ammazzato un ladro. Ma ti ha chiamato Trump? Ma non è questione di Trump, è la logica. Io non sono né l'arma dei carabinieri né il suo avvocato. Se non sei l'arma dei carabinieri, fai il tuo mestiere e non dire all'arma cosa deve fare. La maggior parte degli italiani vorrebbero questo carabiniere che ha ucciso in modo fortuito, tra l'altro, un ladro in fuga. Io credo che lui stesso sia contento per il momento di stare un po' dietro la scrivania. Ma chi l'ha detto è contento? Adesso lo deve dire l'avvocato, perché lo deve dire. Intanto i fatti sono così: c'è un morto fortuito, ma c'è un morto, e tu vorresti che a fronte di un morto fosse già tutto deciso. C'è un'inchiesta, le perizie sono concordi sulla dinamica, c'è un GUP che ha fatto una sentenza che evidentemente sarà impugnata, e il carabiniere ha il suo stipendio ed è dietro una scrivania. Mi pare una situazione che non è così drammatica da mettersi la fondina. C'è un anno, una condanna, un morto. Andate a sparare, rimettetelo in piazza a sparare. È una follia, neanche l'avvocato lo dice. Scusa, ma devi dirlo tu. Siamo di fronte a un comportamento assolutamente equilibrato di un militare. Ho capito, appunto, invece non viene considerato tale da un giudice. Scusi. Che non ha oltrepassato i limiti consentiti. Molti ascoltatori ci scrivono perché se dovesse esserci una sentenza che condanna a un risarcimento, vorrebbero versare dei soldi a favore di questo carabinieri. Io credo che sia comunque una bella cosa, no? Da parte degli ascoltatori della radio, avvocato. Sicuramente ringrazio per la sensibilità. Per adesso non c'è bisogno, però lei mi dice. No, assolutamente no. Vedremo però. Non c'è da fare nessuna colletta. Aspettiamo l'esito del processo. Siamo pronti. Io penso che questa sentenza... Non eccito gli animi, non ho questo compito. Io non devo citare nessun animo. Io penso... Tu ecciti gli animi. Vabbè, siccome adesso per due mesi hai detto che ha vinto Trump e quindi non puoi fare i tuoi giochetti sessuali, allora devi giocare a queste altre cose. Io penso semplicemente, caro avvocato, che questa sentenza, lei non lo dirà mai, ma credo che lo pensi in cuor suo. Lui è l'avvocato di parte, io penso che sia una follia, perché qualsiasi persona normale italiana che io ho consultato, un carabiniere che spara casualmente quattro colpi, di cui uno va a finire in testa a un ladro matricolato albanese, pensa che la condanna di un anno sia una follia. Chiaro, avvocato, lei che dice? Da cittadino, non da avvocato. Da cittadino, bravo. Da cittadino, io le dico che se questo cittadino albanese stava a guardare la televisione a casa sua, sicuramente non riceveva un colpo di rimbalzo di un carabiniere. E non credo che possiamo dire... Ma questo valeva anche per cittadini italiani. Assolutamente. Far firmare come in ospedale un modulo di consenso informato dicendo: sono consapevole che se rubo nelle abitazioni e fuggo dai carabinieri posso ricevere anche dei colpi di pistola alle gomme che possono rimbalzare e colpirmi in testa. Cioè, cioè uno in un, si pone in una situazione di pericolo, esatto, ruba dentro le abitazioni, fugge, rischia di investire i carabinieri, suona l'impazzata richiamando probabili complici, probabilmente erano armati, gli altri che sono fuggiti hanno continuato con i furti. Ci sta che uno spari alle armi. Se io non posso neanche sparare ai pneumatici delle gomme, allora dotiamo i carabinieri di fischietti o di palette e siamo tutti contenti, magari un po' meno i cittadini. Grazie avvocato, a presto, arrivederci, grazie. Buona serata. Saluti, saluti. Arrivederci. Più Parenzo, meno Cruciani. La Zanzara. It was a beautiful day. Sun beat down. Io voglio un'Italia libera dagli italiani. Voglio solo immigrati. Sono felice di pagare la sanità per gli immigrati. Però mi incazzo per pagarla per quegli obesi italiani che occupano spazio in aeroplano. Se volete dire come costruire barricate contro i migranti, o come fate pompino al vostro partner, o volete mandare a cagare Parenzo in diretta, 800 24 00 24. Se invece volete dire come cagate sul cesso, o perché le cinesi non lo prendono nel culo, o come sempre volete mandare a cagare Parenzo in differita, 393 7171 701. Siamo al topissimo. Ah, questo è un genio comunque. Questo è un genio assoluto, assoluto. È un nostro creativo, caro Parenzo, un creativo, sì, un sì, creativo sì. Self, self-made man, come, da questo punto di vista, self-made man. Un volgare, simpatico. Ma no, ma che volgare, mamma mia, un volgare. Ormai volgare, ha vinto Trump, è tutto sdoganato, non hai capito? Beh, che Trump madamo è lo sdoganamento totale di qualsiasi cosa. Un po' mi dispiace, devo dire la verità, che questo sdoganamento appunto, assoluto un po' ti dispiace. Invece bisognerebbe riacquistare. Sì, forse hai ragione. Per essere controcorrente, per essere controcorrente, uno dovrebbe andare. Ma io lo dico da tempo questo, per la verità. Ma tu lo dici per altri motivi, non lo dici per convincimento personale. Sì, ma io nel privato uso il linguaggio che devo usare, indipendentemente da, dipendendo dai, indipendentemente dal. Ti sei impicciato da solo, sei incartato. No, dico, in alcuni contesti posso usare un linguaggio da caserma, solo tra amici, bevo una birra, posso ruttare, posso usare queste parole che tu usi costantemente. Noi abbiamo portato qui il linguaggio, questo linguaggio l'abbiamo portato. Cioè, in questa... ho quel pudore borghese, borghese bravo. Voi potreste dire snob di sinistra, io la chiamo semplicemente buona educazione. Ma non c'entra poi niente, ognuno fa... perché tu dai del maleducato agli altri in questo beh, modo. Totalmente, assolutamente. Se però devo dirti un la verità, così in pubblico è maleducato. Devo dirti la verità, moltissimi ascoltatori mi stanno scrivendo su questa storia del carabiniere, che è una storia che abbiamo fatto nostra. Io sono molto contento che abbiamo fatto nostra questa storia. Ringrazio tutti quelli della grandissima redazione della Zanzara che in questi giorni mi hanno fornito i numeri di telefono di tutte le persone coinvolte nel caso. Il carabiniere non vuole parlare, ma insomma continueremo su questa vicenda, perché io penso veramente che questo carabiniere vada assolto da ogni responsabilità. Dipende, non possiamo fare già il processo. Tu già hai fatto già marcia indietro, ma comunque lasciamo perdere. Io ho avuto elementi in ma più, ma no, erano gli stessi dell'altro giorno, di dai, prima. Gli stessi identici. E poi ho sentito un avvocato della difesa molto responsabile. Ma ti credo, ma per forza, no? Molto responsabilizzato. Allora, molto... mi scrivono, sono disponibile a versare il mio contributo a favore del carabiniere, contattatemi sì, avanti, in qualunque prego momento. Poi sì, c'è un mio amico carabiniere che ha fatto il carabiniere, ex carabiniere, che ha detto che è disponibile a pagare tutte le spese processuali, sì, tutte le spese processuali. Voglio certo, vederli, assolutamente. Questi leoni. Sono un albanese, anche io sono con il carabiniere, mi scrive un altro, un signor albanese. Un altro che mi scrive, dovevano condannare gli altri albanesi per omissione di soccorso, Marco da Milano, amico mio, il problema è che non li hanno presi, sono scappati. E come facevano? Vi leggo però, per cambiare argomento, quello che ha scritto su Facebook Eleonora Brigliadori. Amici miei, fermatevi un attimo. State calmi, rimanete, non come dice Parenzo, non staccate le mani dal volante, lasciate le mani ben attaccate, ferme al volante, perché potreste incazzarvi moltissimo. Eleonora Brigliadori a proposito della morte del signor Umberto Veronesi. Sapete, è morto nei giorni scorsi, no? Se non lo sapete siete degli imbecilli. Purtroppo l'anima devastata di questo uomo continuerà a fare del male, anche ammesso che fosse morto, poi a parte la sintassi, ma chi se ne frega, che possa davvero morire perché ha costruito un impero con i suoi soldati demoniaci che sono già pronti a moltiplicare il male che lui aveva predisposto all'infinito. Tra l'altro non si spiega come mai sia morto a casa avendo un bell'ospedale a disposizione. Io non ho visto il cadavere, non l'ho visto bruciare. in una pira funebre. Posso pure rifiutarmi di credere che sia morto e che questa sia una semplice uscita di scena strategica in un momento cruciale per andare a governare il suo impero del male con un profilo invisibile. Ragazzi miei, io non ho mai sentito una cosa di questo. Io poi uno può pensare tutto della chemioterapia e tutto, ma una cazzata così grossa, anche un vilipendio, diciamo, nei confronti della famiglia di Veronesi appena morto, non l'ho mai sentito. Tra l'altro, in un altro dei suoi interminabili post su Facebook, la signora Brigadori scrive: il cambiamento è iniziato dal momento in cui la sottoscritta ha chiesto di fronte a una platea di oltre 1000 persone un processo per crimini contro l'umanità a carico di Veronesi, ex ministro della salute, come simbolo di una generazione, di una degenerazione mistificata del concetto di salute, eccetera, eccetera. Vedo molto negativo. Vedo molto negativo. Vedo molto negativo, eh. Va bene ragazzi, Luca da Bergamo, vai Luca, vai. Pronto, ciao Parenzo, ciao Cruciani. Sarò brevissimo. E in merito a quel padre che ha chiamato, che si è sentito molto offeso perché un altro ascoltatore aveva usato la parola mongoloide nei confronti di Parenzo. Sì. Guarda, io ho un figlio autistico che quindi ha un ritardo mentale. E non è che tutte le volte che in una discussione uno mi dà a me o sento che dice a qualcun altro che ho un ritardato mentale, io mi sento offeso perché mi sento parte in causa per mio figlio. Cioè fa parte di quelle cose del politically correct che stupidaggine. Personalmente sta sui coglioni. Quindi, vabbè, questo qua ha un figlio, autistico, sì, no, ma è l'idea autistico che di etichettare quindi, come politicamente corretto la buona educazione ed è veramente una cosa stupida, se vi posso ma permettere. Ma questo qua non, perché non si sente offeso, no, se uno parla, utilizza la parola handicappato o mongoloide. No, ma è la motivazione, cioè che tutto ciò che sembra essere ben pensante è politicamente corretto. Cioè si confonde l'educazione col politicamente corretto, che non c'entra nulla. Sono d'accordo, cioè, con Parenzo, da un punto di vista di educazione che non sia la perfezione. Ma non, non c'entra, è politicamente corretto, non c'entra, non potete metterlo dappertutto. Cioè ogni cosa che sembra, come dire, ragionevole diventa politicamente corretto. Diventa. Guarda, altrimenti io disabile, a me sta sui coglioni tutte le volte che sento parlare di diversamente abili. No, ma io non ho mai detto diversamente abili. No, sono locuzioni che non mi appartengono. Sì, però, ma dare a una persona in segno dispregiativo l'appellativo di mongoloide, no, lui ha dato a te è in segno una, di spregio, non è bello, esatto, ma l'ha detto è a te, una volgarità che non c'entra nulla col politicamente corretto. Niente. Basta con sta storia. Basta usarlo in termini dispregiativi e insultanti, non c'entra politicamente con... c'entra la cattiva educazione, Luca, che purtroppo ormai trionfa. Luca ha semplicemente detto una cosa: ha un figlio autistico e non si sente offeso quando uno utilizza la parola mongoloide, la parola handicappato. Diciamo in un modo, che il 99,9% delle persone ma che nel io mio personalmente caso conosco un ritardato mentale, però non è che me lo mi sento perso parte in causa, lo leggo la discussione e va bene. Via, grazie avanti. Luca. Giuseppe Pavia, dai. Buonasera, ho sentito lì l'idiota lì di fianco. Ma ragazzi, io ho subito due furti. Una volta ero anche in casa. Sì, tu stai con il viva voce però, amico mio. No, ma che viva voce, sono una zona un po'... Vabbè, allora... di... Ma se nessuno fa un cazzo, intanto se un carabiniere ti dice che ti devi fermare, ti devi fermare. Se ti muovi fa bene a sparare. Certo, ma è normale, ma è normale. Secondo... Non capisco perché l'arma dei carabinieri non abbia l'assicurazione, cioè ma è ovvio che sono a rischio. Maestro, lasciamo perdere le cose tecniche, ma l'assicurazione, scusa, dai, su. Ma Ma che cazzo lascio perso? Ma non lo so chi pagherà se qualcuno pagherà. Per la tosse, ma che cazzo sta dicendo? Giuseppe, adesso il problema non è l'assicurazione del carabiniere, amico mio. Se vieni riconosciuto colpevole, ovviamente devi risarcire il danno. No, no, ragazzo mio, perché tu fai un lavoro, caro mio carabiniere, che sei soggetto ogni minuto a pigliarti una denuncia. E quindi come la... Le spese legali le pagano loro sempre. L'arma sicuramente, questo sicuro. E poi deve avere comunque un'assicurazione di copertura. Vabbè, Giuseppe, adesso non ci possiamo mettere, non ci possiamo mettere a parlare dell'assicurazione del carabiniere. Ma ci vuole però. Vabbè, ci vuole, bene. Allora, abbiamo capito che ci vuole. Allora, sì. Non ho ancora capito un cazzo, perché... Ma non ho capito con chi parla, cioè io non ho... Ah, no, io non mi chiamo. Questi qui ammettano sotto qualcuno intanto che sta scappando, perché quando scappano, scappano questi qua. È molto più pericoloso rincorrerli che fermarli subito. Ma io non ho capito con chi ce l'ha questo con te, qua, però. Dice che sei un imbecille. Sì. Bravo, Cruciani. No, dice lui che sei sì, un imbecille. No, io non sento, quindi non ho Ma capito con chi ce l'ha. Sempre per partito preso che non ho capito con chi ce l'ha questo qua. Ce l'ha con te, cioè, ma con chi? Ma non è possibile, io non posso confrontarmi con questo, è impossibile che stia dialogando con me, cioè, perché impossibile. È impossibile, scusa. Ma non mi risulta, non so. Beh, è uno, Giuseppe da Pavia, che ti ha chiamato dicendo che sei un pirla, un imbecille, perché avrà i suoi problemi, avrà avuto una brutta giornata, avrà i suoi problemi. Ma no, ma per quello che hai detto ti sta criticando. Ma non so neanche chi sia, cosa mi interessa. Vabbè, ma che vuol dire? Dai, non fare il cretino. Ma chi mi interessa a me il parere di questo qui, vabbè, che chiama Giuseppe, allora? Nell'anonimato della sua vita, ma che me ne frega a me? Bene o male, appunto, che sì. Ha un reddito di un certo livello. Ma non mi interessa il reddito, ma può essere anche un miliardario, per me non mi... o un poveraccio, non mi interessa, valuto quello che lei dice, mica il denaro che ha, che me ne frega a me. Si qualifica da solo già che dice Gio guadagno un certo, che me ne frega a me. Ma se tu non continui a far niente e dai bandiera verde a tutti, bandiera fate il cazzo che volete, ragazzo mio, i morti certo che aumentano, e guarda caso ci rimette la ghirba sempre solo il povero Cristo. La sciura che attraversa le strisce pedonali, eccetera, eccetera. Tu sei a favore di questi qua che vanno in giro a scorrazzare e a fare ma quello chi? Che ma vogliono. Con chi ce l'ha? Non mi sembra che è a favore dei criminali, però. Ma adesso, oggettivamente. Circa quasi, perché mette sempre in discussione che il carabiniere ci ha torto. Un momento, allora. Allora, fermo lì. Maurizio, Biella, dai, Maurizio. Oh, Maurizio. È una cosa. La prostituta con Parenzo, però hai parlato del carabiniere. Io volevo dire questo, io sono un camionista, adesso sono qua dalla Bologna, ero nel carabiniere quando ero ragazzo. Mi è venuto in mente una cosa di un carabiniere che non ha sparato a un posto di blocco, sti ragazzi con una macchina hanno ammazzato una famiglia perché hanno sono andati a fare un frontale con un'altra macchina. Questo mio ex collega è tutta la vita che ha questo rimorso, perché non gli ha sparato. Un sub 3000 se scappa, non guarda in faccia a nessuno. Ma non c'è dubbio su questo, ragazzi. Ma doveva sparare, per me poteva sparare pure all'altezza uomo, me ne fottevo totalmente. Potevano ammazzare con sta macchina. Ma doveva chiunque. Sparare dove voleva, questo è il punto. Un carabiniere qua in questi casi qua in questo può paese sparare come dove in America c'è una regola che tu non è che spari tu forze dell'ordine, il ladro i ladri no il ladro spara come gli pare. Lo Stato ha delle regole su come sparare. Troppe, questo nei paesi troppe. Civili non è vero civili. Non è vero. Poi dopo se tu vai magari in Texas forse non è così, ma credo che anche Texas, non ma solo credo Texas. Che anche in Texas ci siano delle regole, non è che il poliziotto Maurizio, arriva, cosa volevi dire invece su... Allora, senti, un'altra cosa, vuol dire a Parenzo, io per carità sono un miserabile camionista e vado con le prostitute miserabili. Lui forse per carità è un ottimo giornalista, una bella moglie, dei figli però? Metti, io sono vedovo dal 2000, o mi faccio venire una prostata grossa così, o vado con le donne, c'è quelli brutti, c'è quelli timidi, io poco fa ero con una ragazza, mi sono fatto una piazzola, la conosco, mi ha preso solo il caffè assieme, gliel'ho fatto io. Si parla, sono gente che... Ma una prostituta? Era una prostituta? Hai capito. Quindi prima aspetta, di dire aspetta, che... Maurizio, ferma, era una prostituta questa qua? Ma non ti sento, adesso ti richiamiamo, fermi lì. Siete il peggio del peggio, fate schifo. La Zanzara. Parenzo, io non vedo l'ora di incontrarti di persona per vedere se c'è il coraggio poi di dirmi che sono stronzo o sono miserabile. Io mando i messaggi e ascolto la Zanzara, poi vediamo. Parenzo, non ti preoccupare, va? Ciao Parenzo, divertiti, stai tranquillo. Tanto la mia foto ce l'hai su WhatsApp, sei proprio come la faccio, il numero ce l'hai, va bene? Vaffanculo, pezzo di merda. Parenzo, hai rotto il cazzo con questo stato di diritto. difensore dei criminali, ma vaffanculo. Noto con dispiacere che Parenzo ha ricominciato a tirare su col naso. Non si può proprio far niente? Parenzo, basta! Dite a quell'idiota di Parenzo che non bisogna andare nel Texas per sparare ad altezza d'uomo, idiota. Basta andare a Tel Aviv, dove la polizia ha l'ordine di sparare ad altezza d'uomo, idiota. Ed ora Donald Traffico. Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta La Zanzara. Allora, siamo con Maurizio da Biella, camionista, uno che si è autodefinito miserabile, che va a prostitute, se non sbaglio poi è caduta la linea, Maurizio. No, non mi sono autodefinito, volevo dire a Parenzo, sì, che sì, no, parte certo di quella categoria che lui definisce miserabili, comunque quelli che parlano lei. Io vado con le prostitute. No, ma io, perché io ci definisco miserabile chi va con le prostitute, in particolare da, cioè faccio una distinzione, in particolare da strada, cioè sfrutta quelle ragazze che sono, hanno il magnaccia e vengono messe sulla strada con violenza. Maurizio, quelle tu sulla con chi vai? Sono il 90% allora, sfruttate. Allora, se lei va in uno di questi casini in giro per l'Europa, probabilmente Parenzo, non sono sfruttate. Scusa Parenzo, ho 60 anni, sono rimasto vedovo 20 anni fa, per carità. Ma mi dispiace per lei questo. La unica donna della mia vita, non riesco più a averne un'altra. Vado con le donne, vuoi sapere chi sono le uniche sfruttate? Quelle di colore. Io le altre che ecco, trovo, bravo, ce n'era esatto una con me un'ora fa, ha preso il caffè con me, la conosco, si chiama Patrizia, altrettutto è una vegana che gli piace la carne, in quel senso. E comunque, io ti posso dire questa, se aveva un magnaccio cosa, non saliva come sul camion, è una che disse, io lo faccio perché non voglio fare 8 ore in fabbrica, quello guadagno qua in 4 ore, lo guadagno in una settimana. Hai capito? Sì, adesso se lei non sa se è sfruttato o no questa qua, se lui non lo già può sapere. Sa che non è sfruttata, già ma questo lo rende non miserabile. Però tu devi essere, quando tu hai di fronte persone così, devi essere anche coerente, cioè non è che puoi ritirare quello che pensi. Con quello che dico. Pensi, io pensi non, che non lui ritiro sia, mai quello che pensi, penso. Che, pensi che lui sia uno sfruttatore del corpo delle donne e se io va a puttare, ti sta dicendo che va a puttare da 20 anni. Altrimenti non si capisce perché sarei a favore dell'apertura delle case chiuse, cosa che ho sempre sostenuto. Tu sostieni che lui va molto. No, no, io ho detto una cosa molto chiara da sempre, mi pare, cioè dico, la prostituzione da strada in particolare è una prostituzione che vive di sfruttamento, perché queste sono sì, le ma cose tu stai le sappiamo tu e sostieni anche, quindi, sostieni anche che chi comunque chi va a prostitute sfrutta il corpo delle donne. Questo e allora e dunque diglielo in faccia aspetto, però, Maurizio ma diglielo l'ho in faccia detto, in particolare però siccome ritengo il male minore l'apertura delle case chiuse, perché l'ho sempre sostenuto, perché penso che attraverso case chiuse ci sia maggior controllo e si elimini se non altro lo sfruttamento dei magnaccia, se lui ha la consapevole certezza che quella signorina con cui è stato fino a mezz'ora fa in realtà lo fa perché non gli va di fare altri mestieri, va bene, certo. Io mica posso vietare i comportamenti. Ma quante i comportamenti volte vai a umani. Puttane? Quante volte vai a puttane, Maurizio? Ma raramente, una volta alla settimana, 10 giorni, dipende. Beh, insomma, perché io comunque col mio lavoro da miserabile parto la mattina alle 6, sono ancora in giro adesso e non mi tira neanche più. Vabbè, scusa, è la parola, ma sono i suoi dettagli. D'accordo. Comunque, un'altra cosa: c'è anche quelli brutti, quelli timidi. Ma non c'è le case chiuse, cosa fanno questi? Fanno in maniera. Scusa, Maurizio, ma non ho capito: tu non riesci a rimorchiare una donna a prescindere dal fatto di pagare? Non c'hai tempo, non te va? No. Io se non voglio più innamorarmi di un'altra donna perché non c'è la mia vita. Cioè, preferisci frequentare prostitute? Esatto. Ce ne tanti come me, ce ne tanti. Ma c'è tanti anche timidi. Ma questa gente cosa e si fa? E qualcuno vorrebbe punire Maurizio, magari se viene beccato su una strada, a pagare certo, una multa. Certo. Qualcuno vorrebbe punire Maurizio considerandolo un poveraccio, un miserabile, compreso Parenzo naturalmente. Vabbè Maurizio, va bene. Ciao. Allora ragazzi, torniamo su Trump, in collegamento da Los Angeles, caro Parenzo, la più grande pornostar italiana in attività, editorialista, fu, o già editorialista come dice, non lo so se ancora scrive, di Micromega, Valentina Nappi, buonasera. Oh. Buonasera. Ciao, vabbè, per me buongiorno. Come stai? Bene. Senti, ma bene. Ho letto che anche beh, tu fai parte, sconvolta dal risultato anche tu fai elettorale, parte immagino. Di quel numero di persone, di quella nutrita schiera, come dire, di persone, non dico VIP perché magari tu non sei annoverabile tra i VIP, che dicono beh, Trump fa schifo, se vince addirittura ho letto torno in Italia, così hai scritto? Sì, vabbè, adesso vediamo, però ah, vabbè, già te tiri indietro, scusa. Ieri sono stata sul set. Non so se vi ricordate Veronica Hart. Veronica? Veronica Hart, un'attrice della Golden Age. Parenzo sì. Se la ricorda sicuramente, Veronica Hart. Te la ricordi, Davide, questa attrice? No, conosci la grandissima Veronica Hart? No, non ho mai. Mugini, cosa ha fatto? Film con Woody Allen? Vabbè, con chi ha fatto film? Allora, questa qua adesso fa l'aiutante sul set. Pensate un po' se mi sta a piangere. Addirittura, beh, questo pure cosa, pure sì. Lady Gaga, là, come diavolo Google si la parola Veronica si è messa Hart, cioè tra le attrici porno nel sì, mondo del porno. La verità è che i democratici non ti aspettavano. Ma questo, vabbè, questo lo sappiamo. È una signora di una certa età, questa Veronica Hart. Però scusami, Valentina, non ho capito. Nel mondo del porno in America ti favano per la Hillary Clinton? Sì, la California ha votato per... ovviamente. No, la California certo. Sì, perché ovviamente? Non è che quello è un mostro. Beh, cioè, beh no, perché è chiaro, uno... in California ci sono le migliori start-up, ci sono la maggioranza dei laureati. Come cioè, consideri va... Trump? I non laureati hanno votato Trump. Sì, questi no, sono laureati, i dati. Gli ignoranti, sì. Le bestie. Sì. I matti bianchi no. Incazzati. Certo, ma questi sono dati che hai letto in questi giorni, ma è ovvio. Il testosterone è un po' alto, che subiscono ma... le fighe di legno. Bianco, non laureato, ma questo è il identikit che hanno fatto. Scusate. West Coast. Questi prima hanno votato per la Clinton. Scusa, ragazzi, prima per chi vuole il cazzo piccolo. Prima quelli col cazzo piccolo pure. Beh, su questo non lo sì, so. Sì, vabbè, cazzo piccolo in senso figurato, non facciamo side shaming. Cioè, secondo te... mentale, no? In senso mentale, cioè secondo te... Così insicuro che ho il cazzo piccolo, però mentalmente. Mentalmente, cioè secondo te hanno votato per Trump soprattutto bianchi, ripeti un po' com'è la composizione bianchi. No, il fatto che hanno votato soprattutto i bianchi non laureati, allora lo dicono le statistiche. Che scopano le fighe di legno, come hai detto? No, subiscono le fighe di legno. Ah, subiscono perché le fighe di legno. Guardano Trump che invece ha un sacco di fighe, dice le donne le prendo per le fesse. Quindi... per le feste sarebbe per la no per... sì voglio essere anch'io che sì l'hanno votato però fare politica cioè, scusate ma prima queste persone per chi votavano per i democratici, hanno votato per Obama anche le stesse persone, cioè non è che è cambiata la storia, cioè ragazzi non potete dire che l'elettorato di Trump è un elettorato di ignoranti, ma che siete impazziti, no, cioè è lo stesso errore commesso con Berlusconi, lo stesso errore che commettete con no, tutti no ma qui guarda. No, ma infatti la storia che si dice io ho trovato molto interessante, scordando l'italiano, scusate. Molto interessante chi? Quello che ha detto Martina dell'Ombra. Dove ah, sembra... Martina dell'Ombra, sì, Martina dell'Ombra, sì, quella sì, che non sa nemmeno se esista. È un'analisi, È tipo che ha detto? Un'analisi interessante. No, bisogna guardarsi il video perché è abbastanza... Vabbè, scusa un attimo una cosa, tu che hai detto che te ne vuoi... Ho fatto una cantoncina del tipo Trump spara i barboni. Ma io non ho capito una cosa, tu hai detto vado via dall'America, adesso ci stai a ripensare, cioè una, è come se come perché quella che diceva per lei era impossibile se come immaginare che, se come no, quelli no, che dicevano per me la questione è questa, io non sono un cittadino e non ho nemmeno la green card, sono ho un permesso e dunque lavorativo. Te ne puoi andare subito diciamo sì se voglio me ne posso andare subito però non te ne vai notizia, la buona notizia è che non è passata la Prop 60. Sarebbe... Sì, la legge che avrebbe imposto al mondo del porno il preservativo, giusto? Sì, no, del porno alla, in California, alla California, in California, sì. In sì. Sei contenta? Certo, perché altrimenti avrei dovuto bannare il mio sito in California. Però, avrei dovuto impedire agli utenti californiani di guardare... Sì. Cioè, non avresti più potuto girare porno... Sei tutto a Las Vegas. Non avresti potuto girare più porno con, se non col preservativo? No. No, non l'avrei mai fatto, mi sarei spostata a Las Vegas. Come te ne saresti andata a Las Vegas, cioè non torni in Italia, resti in, la notizia è questa. Valentina Nappi diceva che se avesse vinto Trump se ne sarebbe tornata in Italia, in realtà non torna in Italia. Era una battuta, non era una battuta, detto, prometto sì, vabbè. Che torno in Italia, o era una minaccia. Ma perché ti fa schifo comunque Trump? Mi spieghi perché ti fa schifo Trump? No, allora, beh, non mi fa nemmeno schifo, che non è che prendo le cose sul personale, vediamo cosa farà. Secondo me somiglia molto a Berlusconi. Vabbè, somiglia a Berlusconi, sì, è una cosa banale che dicono tutti, cioè, sì no, intendo come psiche, nel senso che uno che fa le, ragazzi, battute, è un libertario, sì, Berlusconi è un democristiano, è uno beh, questo ha avuto tre, ma sì, è mezzo democristiano Berlusconi, sì, dai, alla fine. Semplicemente questo è un libertario che non toccherà, non toccherà un solo diritto, non toccherà un solo diritto dei gay, dei in America, non succederà niente da questo punto di vista. Questa è infatti nulla. Un'altra questione. Quello. Però scusami, Valentina. Per le leggi sull'immigrazione. Cioè, scusa un attimo, questo vedremo. Scusa un attimo, Valentina, ma dunque si potranno continuare a girare in California film porno senza preservativo. Ma secondo te, sì, secondo te, tu non hai paura dell'AIDS? Ma veramente, sul serio? No, non hai paura. Ho paura di far sesso con uno sconosciuto col preservativo, non ho assolutamente paura di fare sesso con qualcuno con il test. Cioè, una delle ragioni che mi spinge a restare qua è proprio il sistema di test che abbiamo in California. Cioè, è più pericoloso fare sesso con uno sconosciuto col preservativo e no? Perché ragazzi, il preservativo si rompe, e poi uno sconosciuto è sempre uno sconosciuto che non so che cos'ha. Uno sconosciuto con un test... È uno sconosciuto che so che non poi, ha. E poi col preservativo i film porno muoiono praticamente, la pornografia muore. Ma non è nemmeno quello, non ne faccio nemmeno discorsi di mercato perché non... Beh sì, e quello è chiaro. Cioè... Non lo so quanto potenzialmente. Il problema è un altro, è che è impossibile fare porno a certi ritmi con il preservativo, veramente impossibile. Quando giro col preservativo... No, ma sono problemi. Male, non me la godo. Perché non è come farlo in privato, cioè non sono quei 15-20 cioè, minuti. Cioè, tu dici che... Siamo fortunati 40. Se siamo fortunati 40. Ore, cioè, ore di posa. Tu dici ore e ore di posa, se col preservativo è impossibile. Sì. Dovrei lavorare una volta a settimana. Cioè, perché proprio ti passa la voglia, dici te? No, perché comincio a farmi male, perché comunque non... Per una questione di sfregamento, diciamo, di sfregamento. Sì, esatto. Ma secondo te l'AIDS esiste? Ma che domanda è? No, perché certo. Sai, c'è tutta una teoria, c'è una teoria che gira ogni tanto, sì, da parte di qualche pazzo che dice che l'AIDS in realtà non esiste. Non faccio parte di questo gruppo di persone, ovviamente. Dunque siamo sicuri, non torni in Italia, nonostante Trump resti lì. Tornerò in Italia. Ma torni, però non è che vai via dall'America trumpiana. Ragazzi, qui è pieno di persone che hanno detto quando ha vinto Berlusconi. Però mi cacciano. No, hai sentito, Parenzo, ti ricordi, no? Quando sì. Berlusconi vinse c'era un sacco di gente che diceva, intellettuali, attori, attrici, eccetera, eccetera, che dicevano vado via dall'Italia. Massimo mi faccio una canna come Nanni Moretti, non mi sono mai drogata in chiesa mia, non mi sono mai fatta una canna. Vabbè, ciao cara, okay. ciao. È il momento di iniziare. Ciao. Gnappi. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading. Vi presenta La Zanzara. Cruciani, stasera appuntamento galante. La serata promette bene. Oltre alle solite due farò la terza, pensando a te e alla tua astinenza. Giuseppe, il mese di astinenza lo vogliamo con l'atto del notaio. E niente pippe. Allora ragazzi, andiamo con Giovanni da Modena. Giovanni, dunque siamo tutti più tranquilli, la Nappi resta a Los Angeles, le borse internazionali possono chiudere in maniera regolare, no Parenzo? Assolutamente, adesso in particolare Tokyo che era in fibrillazione, ma cioè riaprirà in modo regolare. Sì, molti italiani però forse saranno non delusi. Non c'è il rientro da questo. Delle fighe, non dei cervelli in questo caso, non ci sarà il rientro delle fighe. No. Che comunque uno non può scrivere. No, dice me ne vado se vince Trump. Sì, però vediamo. Perché come, lo valutava talmente impossibile. Come me quando ho detto che per due mesi non faccio sesso. Invece è una self-fulfilling prophecy. Primo giorno molto duro. Giovanni, Modena, vai. Giovanni. Allora, sono qua, salve. È la prima volta che intervengo in una trasmissione in assoluto. Sì, siamo contenti. Spero che mi sentiate abbastanza bene. No, ti sentiamo bene, altrimenti ti avrei già interrotto, per cui fighiamoci un po'. Vai, Giovanni, che mi vuoi dire? Ok, allora che ti voglio dire? Che le voglio dire? No, che mi vuoi dire? Io ti do del tu fai quello che ti pare, vai. Va bene, ok. Allora, come ho detto ai colleghi, ho assistito praticamente a, a delle guarigioni da cancro che sono incredibili. Cioè in che e senso? Questa cosa Giovanni, con mano. Innanzitutto tu che mestiere fai? L'impiegato. L'impiegato. Hai assistito a delle guarigioni da cancro? Commercio. Sì, hai assistito mio a delle... padre era un medico, il direttore di un ospedale. Mm-hmm. E da allora... quando sono bambino ho visto le cose, diciamo, da un altro punto di vista, dall'interno. Dunque, lui Giovanni, cosa ci vuoi dire? Cosa ci voglio dire? Ok, ho assistito a delle guarigioni sorprendenti, impossibili, insperabili, del tipo, vi sto raccontando che gli asini volano. E quindi è una cosa che non sarà credibile. Sì, ma con che cosa sono guarite? Con che cosa sono guarite? Innanzitutto, com'è che hai visto con queste cure naturali? Cioè, con cure naturali senza la chemio? Stiamo parlando? Senza la chemio. Comunque stiamo parlando di malati di cancro. Tu stai dicendo mai fare la chemio, che è una cazzata. Mai fare la chemio. Ma non si può dire una cosa di questo tipo. È una Giovanni. Cosa che lei dice così. Sì, lo so. Provocando anche mala informazione. Ma informazione, ma messaggi distorti. Sì, andiamoci per gradi. No, ma non c'è per gradi. Tu stai dicendo che la chemia ammazza le persone, giusto? Non lo dico io, non faccio altro che dare voce a qualcun altro che lo sostiene. Cioè, che per esempio, medici, laureati, ce ne eccetera, fai portavoce eccetera. Di portavoce, portavoce. Portavoce di che cosa? No, non è questione di portavoce, qui è questione che io faccio una testimonianza. Ma testimonianza di e cosa? Tu hai visto la faccia, per così dire. Sì, prego. Ma tu hai visto delle persone non morire di cancro e sì, guarire per... con i tempi che avete voi della radio ed io correndo, proprio correndo a crepatelle, vi posso dire brevemente, raccontare quello che mi è successo sì, no, ma... con il mio vicino di casa. Brevemente, dai, forza. Se me lo consentite. Vai. Allora, il mio vicino di casa mi dice, guarda, mi hanno dato una sentenza di morte, ovviamente. Sì. 2 anni prima era stato operato... 2 volte di tumore, allora? 6 ore un intervento, 6 ore un altro. Hanno detto che devo morire? Sì, 75 anni, niente chemio perché non l'avrebbe sopportata, gli hanno detto e allora? I sanitari. E allora il bello è, io non credo al caso, che un mese prima mi avevano dato un mio collega un libro, non so se lo posso dire, ma comunque che parlava di una cura naturale. E io con molta circospezione, perché ero imbarazzatissimo, mortificato. Hai dato questo libro? Hai dato questo libro al tuo vicino di casa? Ho detto di questa cosa, cercando di farlo ragionare, dicendo non costa nulla questa cura. Sì. So che alla nostra età, dopo tutte le fregature che nella vita si prendono, non si riesce più a credere praticamente in nulla. E dunque? Però se dovessi credere a qualcuno, sarei più propenso a credere a una persona che non mi chiede soldi, che devolve la propria vita per gli altri. Bene, Giovanni, adesso al di là di queste cose qua, andiamo al sodo, perché altrimenti, come certo. Puoi immaginare, diventa... E allora come è andata a finire? Che questo signore, e lì si è giocata la sua vita, ha detto di sì e abbiamo cominciato questa cosa. Ed è guarito. Ovviamente io pensavo... Anch'io sono rimasto incredulo perché pensavo che avrebbe avuto un miglioramento, non una guarigione totale. E secondo i medici, 5 oncologi che lo seguivano, lui era spacciato. I miei amici. Sì, però cosa vuol... Scusa, Giovanni, ma un caso non vuol dire assolutamente nulla, cioè non vuol dire niente. Ma allora, dopo questa cosa qui, che mi ha destato. Ci sono stati altri casi? Sì, ci ha messo 2 anni a guarire. Scusa, cioè, qual è sta cura miracolosa? Scusa, il cane, come il cane? Aloe. Allora, ma ce ne sono tante che sono molto efficienti. Cioè, tu, allora, scusa un attimo, tu dall'esperienza che hai avuto, diresti a qualcuno che è malato di cancro di smettere con la chemioterapia e di prendere l'aloe? Di non farla mai. Assolutamente. E di prendere l'aloe, giusto? Dall'alto di che cosa? Del fatto che lei ha visto. Incredibile. Sì, però. E allora, quando voi avete prima accennato a come si chiama quell'attrice. La Brigliadori, attrice è una parola grossa. Eleonora Brigliadori, sì, che ha attaccato Veronesi dicendo che è un criminale come i criminali di guerra. Benissimo, benché questa cosa sia, come dire, un po' così sfacciata, eccetera, sfacciata, un carattere poco condiscendente. Devo dire che alla luce di quelle che sono state le mie esperienze, ha ragione lei. Diciamo che merita approfondimento. Ma merita approfondimento cosa? Ma di che stiamo parlando? No, merita approfondimento, ragazzi. Ha detto che è un criminale e che forse non è morto nemmeno Veronesi, la Brigliadori. No, ma di che parliamo? Dai. Perdonate, io non sono uno che. No, non c'è da perdonare niente su queste cose, guardi. Lasciatemi dire una cosa, Veronesi, benché io lo stimi tantissimo. Chi? Veronesi, il dottor Veronesi, il professor Veronesi, perché io lo stimi tantissimo per allora? Come ciononostante non vuole dire che abbia anche lui, come dire, la verità in mano. Fermo lì. Pronto? Sì, buonasera, pronto? Sì, buonasera. Sì, cercavo la signora Brigliadori, buonasera. Non c'è. Lei è il marito? Non c'è, mi dispiace. Non c'è. Buonasera. Posso chiedere, pronto? Sì, mi dica, può chiedere. Volevo sapere se sapeva dove si trovava il dottor Veronesi. No, non ho idea. Sarà dove deve stare, non ho idea, non conosco Veronesi. Umberto Veronesi, lei lo conosce? Ah, sì, sì. Sì. Sa dove lo posso trovare? No, perché siccome la signora Brigliadori ha scritto che non crede che sia morto, magari ha l'indirizzo, ce lo può fornire, l'indirizzo, il numero di telefono. La signora Brigliadori non c'è, quindi... No, c'è però siccome la signora Brigliadori ha scritto che non crede alla morte di Veronesi, allora sto chiedendo, siccome... non sapeva nemmeno che era morto Veronesi. No, perché sarebbe interessante chiedere alla signora Brigliadori, scusi, non è che per caso sa dove si trova il dottor Veronesi, detto con tutto il rispetto per la famiglia di Veronesi, naturalmente, si sta scherzando su una puttanata, no, scherzando non troppo, si sta pigliando per il culo una che ha detto una puttanata, cioè, non è che volevo offendere totale, Veronesi. Totale. Vabbè, Giovanni, abbiamo capito, noi non crediamo a quello che dici tu, pur essendo persone laiche, pur essendo persone che hanno sempre il dubbio in testa, mi dispiace, io non penso che ci si possa curare con l'aloe, cioè io non lo farei, poi se uno si vuole curare con l'aloe lo può anche fare, per carità. No, è un messaggio folle. No, ma uno lo folle. Può anche fare, se uno si vuole curare con l'aloe e con altre cose, lo può anche, io sono per la libertà totale, no, uno si vuole curare con l'aloe, no, uno se si vuole curare con l'aloe si può anche curare a suo... Ma infatti non c'è l'obbligo di suo pericolo, no? Cura, Roberto, provincia di Milano, vai. Pure quello, figurati. Ciao a tutti e due. Dimmi. Io volevo solamente intervenire sulla vicenda di quel povero carabiniere di cui parlavate prima. Allora? Io penso di sapere già come andrà a finire questa storia del risarcimento, così. Sicuramente, vabbè, quello che hanno chiesto loro la famiglia dei... No, se verrà confermata la pena, sicuramente qualche soldo dovrà dare, sicuro. Sì, sicuramente non gli daranno 2,5 milioni, no, però io, no, come no. Diceva la vostra collaboratrice, anche se è morto, anche se è morto una persona, per cui comunque... No, ascolta. 200-300 mila euro glieli daranno sicuramente, e chi li paga andrà a finire che li pagherà l'arma dei carabinieri. Può e essere. Di conseguenza lo Stato e di conseguenza noi. Sì. Allora io voglio solo dire che mi sembra una cosa vergognosa che bisogna risarcire la famiglia di un delinquente. Solo questo volevo dire, perché non ci dobbiamo lamentare, il resto d'Europa ci ride dietro. A me lo dici, cioè questo qua un ladro matricolato scappa perché viene colpito peraltro di striscio, ma a me, io vorrei anche eliminare questa cosa. Se avesse sparato alla testa, per me sarebbe stato, io avrei detto la stessa, io personalmente, ma per fortuna avrei non detto c'è questa la stessa legge. Cosa. Tu che cosa avresti detto, Roberto? Io avrei detto la stessa cosa che stai dicendo tu. Allora, se no, altrimenti eliminiamo l'arma dei carabinieri, della polizia e tutto quanto. Stiamo parlando di circostanze, non è che uno spara all'impazzata, spara a ladri in fuga che mettono in pericolo altre persone. Se ma tu spari anche ad altezza, io dico anche ad altezza d'uomo, è qualcosa posso di normale, il naturale. Portavoce in Italia di Donald Trump, che la campagna elettorale è finita, avete vinto, ora dovete governare tu e Donald. Allora ti sono informo, pronto, come dire, sono pronto. Se, ecco, ti sono informo pronto. Che anche Donald oggi, che è andato alla Casa Bianca a incontrare quel negro, infatti la prima cosa, ma c'è Casa Bianca, come fa la Casa Bianca a starci un negro? Non l'ha detto, magari lo ha detto nei comizi della campagna elettorale, no, però contestava. È andato lì ed era anche molto imbarazzato, perché l'ho visto nel video di sì, Sky, sei l'interprete non della... sapeva, no, ma evidente, no. Non sapeva neanche dove mettere le mani, dice, ma mi devo sedere qui, ma cazzo, ma certo, ma perché la Casa Bianca qua è troppo piccola per lui, ma dice, ma veramente... è troppo piccola per no, lui la ma Casa Bianca, mi dice, ma cazzo, ma veramente sarà una Stamberga, ci sono cascati tutti sarà quattro. Una Stamberga, ci sono cascati tutti, quindi sono qui, quindi neanche Trump dice bisogna sparare in testa ai criminali, ma no, lo fanno per in America strada. Direttamente lo fanno, sì, salvo poi dopo mettere sotto inchiesta i poliziotti che fanno un eccesso di, perché anche lì c'è, allora Sergio da Brescia, vai. Calmati, Sergio calmati. Da Brescia. Calmati e governate. Vai Sergio, pronto? Dimmi. Ciao, volevo dire, signor Parenzo, io sono un ex appuntato dei carabinieri. Sì. 20 anni fa io abbiamo avuto un conflitto al fuoco con dei rapinatori. Sì. Ci hanno sparato, sì, ci hanno buttato fuori strada, è partita una razzica di mitra. Sì. Abbiamo ammazzato una persona. Siamo stati per 3 anni sotto processo. L'illegale ce lo siamo pagati noi. 3 carabinieri ce lo siamo pagati noi. E siamo stati sotto processo a un quinto di stipendio, essendo stati sospesi. Io avevo moglie e 3 figli da mantenere. E gli dica al signor Parenzo di andare lui sulle strade a segnalare la pattuglia dei carabinieri a vedere come vengono trattati. Scusa, non Sergio, scusa. Lingua. Sergio, sì, scusami, ma tu hai sparato anche tu col mitra quel giorno di 20 anni fa? Esatto, sì, l'ho sparato anch'io. Cioè, ho risposto al fuoco. Sì, vabbè, hai sparato rispondendo al fuoco, naturalmente. Ma hai contribuito alla morte di quella persona? Adesso non so che sei stato. Abbiamo contribuito alla morte di una persona. Sì, di una che era un rapinatore. Vabbè. Che cos'era? Un rapinatore che aveva fatto una rapina in banca. E nessuno l'ha incriminata, mi pare. No, noi ci hanno incriminato. Ci hanno tenuto 3 anni sotto processo. E poi com'è finita? Ma il fatto che ci sia un processo e che l'arma decida di sospendere, lei dovrebbe essere contento, perché l'arma difende la propria... Scusami, l'arma dei carabinieri con questi provvedimenti difende il proprio onore e dice accertiamo la verità. Sei incazzato o no, Sergio, per questa cosa? Quanto sei stato? Sono incazzato. Ma se la prenda con la sua arma, allora, che l'arma dei carabinieri è seria, la benemerita, è serissima la benemerita, altro che. Ma qua il giudice fa il suo lavoro, accerta, vede, 3 gradi di giudizio, l'hanno condannata alla fine dei 3 gradi di giudizio, sì o no? Non ti hanno condannato, no? E allora che vuole? E allora si rilassa. Sergio, ci sentiamo domani e ci racconti meglio. Ma perché lo devi insultare così, lo devi attaccare? Questo è un carabiniere che ha servito lo Stato per tanti anni, non ho ricevuto lo stipendio per 3 anni, ma è una vergogna, dai. Radio 24, libera la voglia di fare.